देखो वहां है शांति, वो बड़ी लहर, वो बड़ी लहर। Dove ci porterà questa sponda di mare? In abisso la terra. Con le mani copriamoci gli occhi dal sole. Sospesa ogni visione orizzontale. C'è solo più mare. Ci scopriremo a bagno. La nostra vita nel sale. A conservare un aspetto civile. Il nostro umano candore. In questo giorno sì, in questo giorno sì, in questo giorno si muore. In questo giorno sì, in questo giorno sì, in questo giorno si muore. In questo giorno sì, in questo giorno sì, in questo giorno si muore. Eccola la pace, eccola la.